parto subito a impatto. Sì. Mi muovo veloce di scatto. Tu si rime di scarto. Yeah. Conta pure il distacco. Sì. Io non sono distratto. No. E non suono distorto. Yeah. Vi svelo il misfatto. Ho il flow contorto. Yeah. Gioco pesante e me ne frego. Sì. La vita frega, io non ti frego. No. La vita piega, io ti piego. Sì. Scrivere rime fra è il mio pregio. Yeah. E lo faccio con gioia. E alle tue cazzate io non ci credo. No. Io non provo con noia. Perché spacco, non so se mi spiego. Eh? Dammi un clap, non gli applausi. Sì. E sotterro gli scrausi. Facci il rap e ti supero. Ti faccio ciao, ciao. Come Heidi. Sono tranquillo, ma sopra i beat esplodo come i Raudi. Ogni rima che arriva è a sorpresa come l'uovo Bauli. Sempre tra casse rullante. Descrivo il destino come un cartomante. Yeah. Freddy rime ne ho tante. Pure doppie come in tandem. Yeah. Vivo intensamente, meglio che posso ogni istante. Sì. Non sono un re, sono un fante. Sopravvivo Highlander. Yeah. Scrivo davvero impegnandomi. Non mi fermi manco legandomi. No. Non mi fotti mica fregandomi. No. Ma ho speranze come coriandoli. Yeah. I colpi li dai e impari dandoli. Sopra il filo del rasoio. Soffro troppo tagliandomi. Ah. I beat li amo spaccandoli. Sì. Rappare è questione di senso. Del tempo, fumare la base come l'incenso, farlo per gli altri e per se stesso, mettere il cuore sempre in mezzo. Io lo faccio così perché è così che io sono. Spero che ti piaccia il rap perché questo qua è il mio suono. Dissociarsi da ogni incapace che fa il giudice. Da chi elemosina soldi molto più di quanto fa l'UNICEF. Ti prenderanno a pugni e dovrai essere un pugile. Ciò che ti posso dire, sei debolezze, distruggile. Ciao.